La morte e il boscaiolo da Favole di Jean de La Fontaine tradotto da Emilio De Marchi registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi luglio 2007 Roma. Sotto un fastel di legna, non men che sotto il peso degli anni, un boscaiolo, curvo, accasciato e stanco, andava trascinando il doloroso fianco verso la sua capanna. Ma tanto è il male e il peso che il poverino affanna, che posto in terra il carico, a dire cominciò: «Qual dura sorte in questo mondo sconclusionato il ciel mi serbò! Sempre col pane in lite e per soprammercato la moglie, i figli, i debiti, le tasse e l'angherie che fanno a un pover'uomo la vita irta di spine. O morte, a questi mal poni un rimedio e un fine. La morte che non usa farsi aspettar giammai, vien subito e, in che cosa, esclama, o buon fratello, posso giovarti? O grazie, soltanto ti chiamai perché mi aiuti a reggere un po' questo fardello. E la morte è un gran rimedio a chi è stanco di soffrir. Sarà ver, ma piace agli uomini più soffrir che morir». Fine della favola La morte e il boscaiolo. Questa è una registrazione di dominio pubblico.